you to let it get this far, boy. Hai rovinato una canzone meravigliosa. Hai rovinato il finale di una canzone meravigliosa. Ma dai, mi faceva ridere, dai. Allora, ancora un buon pomeriggio dal DJ Edo Rossi. Attenzione, a great special guest here tonight, ma ladies chi? And gentlemen, Mr. Claudia. Un po' dalle 9. Ciao Claudia. Dalle 10, però insomma. Sì, vabbè. Allora, come stai, caro DJ Edo? Ma come vuoi che stia? Bene, cara. Io mi fai fare, già che siamo in contatto, io già forse non l'ho già ringraziato a sufficienza, ma voglio farlo ancora di più. Voglio salutare e ringraziare il grandissimo Antlon, che è colui il quale sta gestendo, ha messo in piedi il nostro meraviglioso sito rockfamily.it. È vero, però sei un ruffiano. Col quale stiamo discutendo per cercare di migliorare un pochino anche la fruibilità del sito, per insomma fare in modo che la famiglia riesca a darsi degli appuntamenti diciamo più raggiungibili, dove riusciamo a beccarci meglio sulla rete e non in questa piattaforma nella quale per il momento regna un pochino il caos, ma siamo qua per metterla in ordine con tanta benevolenza, eccetera eccetera. Non ho capito niente, ma fa niente, vabbè, va bene. Nessuno aveva dei dubbi. Allora rispondiamo intanto a qualche messaggio arrivato al 335 10 77 77. Un saluto, un abbraccio a Tiziano da Livorno, che dice sì, va bene. No, dice: sia ben chiaro che noi il 31 veniamo per festeggiare, succederà casino se qualcuno ci verrà a spaccare gli attributi. Caro Tiziano, fa il bravo, mi raccomando, il 31 fa il bravo. Poi un saluto al Fefo. Ecco, abbiamo sentito la rullata della Claudia, che non è in grado, cioè è assolutamente in grado di sostituire Mox Cristadoro nella Rock FM Stars Band. Dice, di la verità, con impressioni di settembre oggi sei rimasto su un prato a fumare qualcosa. Va bene, grazie e buone galatine, caro Fefo. E poi che altro dire? Ma la DJ Claudia non è qui a caso. Però in realtà stavo giocando col fiorellino e quindi sto giocando con questa cosa meravigliosa che abbiamo nei nostri studi. Perché sono qui? Perché Edo, non so. Sì, che in realtà ci è saltato un appuntamento. Sì, dove, ecco, poi tu sei quello che rovina tutto, perché se io ti dico Edo, forse domani abbiamo una telefonica, questo non vuol dire che lo devi dire in onda, perché poi vedi cosa succede. L'interessato purtroppo non riesce stasera. E insomma, magari qualcuno se ne aspetta, cioè, nel ho senso, capito, però le cose vanno annunciate, nel senso, Edo, la morale della fatti i cazzi tuoi. Ma no, non è vero, ma per cortesia, anzi io voglio sempre condividere con tutti le belle emozioni e, sì, ma poi l'importante è darle queste emozioni, capito? Guarda, comincia a darla tu che risolviamo un sacco di problemi, Siete su Rock FM, che vivla che sei, la voce di Rock Family, Claudia special guest nella nostra seconda ora, vivlone, la voce è quella del chitarrista della Rock FM on Stars Band, quello che fa gli assoli, il DJ quello Edo che Rossi, fa stage diving, e poi la gente mi scrive: ma quanto pesa il DJ Edo? Vabbè, povero ragazzo, ancora porta i segni. Ma perché io c'ho il fisico massiccio, hai capito? Hai la pancia massiccia. Beh, anche. Airborne, questa Running Wild. non so perché, ma questa canzone non l'ho scritta io, questa questi Led Zeppelin, Living Love in Just a Time, mi sembrava averla scritta io, vabbè, lo stesso. Siete su Rock FM, la voce quella di Edo Rossi, e dall'altra parte del vetro abbiamo il piacere di ospitare oggi Miss Claudia. Che base abbiamo? Una delle, questa base? Una delle mie. Ah, bella. Non ti piace? No, molto bella. Ne mettiamo un'altra. Ecco, magari qualcosa di più grintoso. Ma, perché... poi si apre, voglio dire. Ah sì, poi si apre, ok. Sì. Allora se si apre, teniamola. Ah, porca miseria, ma fatti pensa alle tue di sigle, alle tue di basi, per cortesia. Le mie basi sono bellissime. Sì, sono strepitose. Allora, dunque, andiamo a rispondere un po' di messaggi giunti al 335-100-7777 oppure a edo@rockfamily.it, come avrete capito dalla presenza della DJ Claudia. Siamo allo sfascio più completo, quindi grazie. Il cazzeggio. Ma io servo a questo, no? Il cazzeggio la farà da padrone all'interno di questa trasmissione di oggi, quindi un saluto a Ivan da Genova che dice I can get no Edo Rossi, I'm listening to Rock FM, amo questa famiglia. Grazie Ivan, anche noi amiamo te. Poi un saluto a chi mi scrive semplicemente ciao, buona giornata e buon lavoro, grazie anche a te, non so chi tu sia, non ti sei fermato. Poi guarda, combinazione, pensa a te, mi tocca leggere un messaggio del fanello, parlavamo prima del forum, è uno dei più grossi cliccatori e scrittori del forum, va bene, un saluto anche a Monsignor Fefo, un signor, aiuto. Qualcuno può aiutarmi? E se avessi un monitor o uno schermo potrei aiutarti, ma non. Beh, prova a schiacciare power e a vedere se si accende. È 3 ore che schiaccio power, ma qua non so. I got the power, I got the remedy. Bravo. No, nulla. E poi lascia stare il mouse, per cortesia. Poi, altra cosa, dovete vedere a Claudia quando si mette a toccare il mouse, è finita. Poi, allora, grazie per Little Richard. Prima che chiudete ci scappa un pezzo ska, Northern Soul, ma chi può dirlo? Potrebbe arrivare addirittura qualcuno che ce lo viene a suonare qui. Poi un saluto a Marco da Pisa, invece, che dice sono a letto con la febbre 39, ma non chiamerò il dottore, la mia cura è Rock FM. Oh. Ma grande. E tra l'altro su questo, sul potere taumaturgico di Rock FM, c'è anche il Joker del database che dice oh grande, prima sono passati i Twisted Sister, dice ne avevo bisogno, ufficio con lavoro che mi esce dalle orecchie e caldo sahariano. Ma lo sai che Rock FM è meglio dell'aria condizionata? Grazie Joker per queste belle cose che ci dite. Poi un saluto a Mauro da Pordenone che dice ma Edo, ci siamo dimenticati i bigodini per i Twisted Sister, credi che potranno mai perdonare quella mancanza? Claudia di ghiaccio. Poi No, per i Twisted Sister ho detto, mi raccomando, facciamoci riccioloni biondi e balliamo il sound. Non ti stavo ascoltando prima. Brava. Stavo guardando, sai, quelle foto meravigliose. Quali foto meravigliose? Della bimba. Ah, ok, pensavo parlassi di quelle che ci hanno mandato per il concerto. Vabbè, lo stesso, no, comunque ci sono un paio di foto dove sono anche venuto bene. Poi, allora ego. Poi un saluto anche a chi scrive oh, la Claudietta, quanto tempo è che non la sentiva. Te la sentivo, ma sentiva femminile, no? Ma dimmi Edo, è sempre stupenda come al solito Tuto, l'amante di Claudia. Ma certo caro Tuto, anzi ancora più buona, fidati. Fai il radio. Poi dunque un saluto a Leo che dice grazie per gli skid, è bello uscire dal lavoro e sentire una delle mie canzoni preferite. Guarda, la scritta Claudia invece è quella degli Skid Row, che si chiama Wasted Time. Poi altri messaggi. A proposito di Skid Row, sì. Abbiamo contattato, sì. Anzi, visto che trasmetto con egocentrico, sì. Ho contattato anche Snake. E che dice Snake? Niente, di andarsela a piandere qua. Non mi caga, però fagli, io la meglio l'ho scritta, quindi. Ah, ok. Sì, perché come sapete stiamo cercando, insomma, di sfruttare tutte le conoscenze che abbiamo avuto in questo periodo qui da Rock FM per dire oh, ma noi staremmo chiudendo, ce lo fate un saluto, e tutti ci mandano a cagare. No, ma magari ci mandassero a cagare, non rispondono nemmeno alcuni. L'imbarazzo c'hanno, chissà contro chi ci mettiamo, No, qualcuno mi ha risposto vabbè in inglese, però il senso era no, basta, quindi non fai più radio, ciao Rock FM, addio, chiuso, sarà vabbè, cioè, ho capito, cioè, ma tu sparisci, ma ti smontano poi alla fine della però vabbè, va bene. Poi volevo rispondere anche, porca miseria, continuano ad arrivare messaggi, va benissimo, però mi salta tutto per aria. Dunque un saluto all'infante che dice Vorrei essere il mouse mentre lo tocca la Claudia. Caro Infante, ti faresti due palle micidiali perché. E poi dunque, un saluto anche a Gibson che dice: beh, lì Edo, se dopo il concertone di venerdì scorso vi scioglieste, sareste dei bulici. Caro Gibson, chi può dirlo cosa sarà della Rock FM Stars Band dopo il 31 di maggio? E poi allora ma vogliamo mandare una canzone, magari ti organizzi con i messaggi? No, che senti, volevo leggere ancora Mike. Sono abituati a sentirlo sia con te che con gli altri, quindi dice questa degli Erbo. Malosone mio, posso andare, grazie, o vuoi cantare Brasil? Questa degli Erbo, a proposito di Brasil, sì. Oggi si inizia, oggi ho ufficialmente inaugurato. L'hai infradito? Sì. Benissimo, quando ti metterai. Chi se ne frega, lo so. Esatto, perché a noi ci frega del topless. E infatti è proprio su questo il super topo volante da Pisa dice: bella Claudia, non posso non essere d'accordo col buon Edo Rossi. Claudia, facci vedere le puppe. E anche tu, Edo Rossi, in gamba. No, credo dicessi anche tu, Edo Rossi, facci vedere le puppe. Voglio dire, abbiamo parlato di un po' di pancia, ma ecco, non è che sono così, insomma. Vabbè. Sembra un po' due puppe. Eh? La tua pancia. Ma dai. Che è divisa in mezzo. Quello è il culo, Claudia, ti sei sbagliata. Mark Lanegan Band, questo è Sideways in Reverse. All is dead, high, wild, we'll make a connection. Never know my shepherd, never know my witness. Oh, come on now, honey, you're so sick and pretty. Sugar, cause you know it ain't easy. Bang, bang, bang, let me shoot it all over. Throw it down, people give me your love. You're another mistake, your sign is disaster. Throw it down, people give me your love. I'm gonna shake, shake, shake as a matter of course. Throw it down, people give me your love. It fights like a bitch and it kicks like a horse. Throw it down, people give me your love. We'll be right back. truth will take your fascism away. We are the youth, apologize for another day. We are the youth, and politicians are so sure. We are the youth, and we are knocking on death's door. Questi erano i Silverchair, la canzone era And Them for the Year 2000. Siete su Rock FM, la voce di rockfamily.it. E dall'altra parte del vetro c'è la mia insegnante d'inglese, la DJ Claudia. Pronto? Eccola. Allora ti correggo subito, sì. Non è Anthem for the Year 2000, Anthem. Oh yeah, oh. L'inno. Uh-huh. Senti, allora rispondo. Senti, un po' di. Vedi. Allora, un saluto a Colin che propone Max De Rio come sindaco di Milano. Ma magari. Poi un saluto a Paolo da Milano che dice: Edo, la mia donna vuole lavare la vostra maglietta che le ho regalato con sulle vostre firme. E se poi fa la stessa cosa con la mia, diglielo tu che non sono cose da fare. No. Claudia, voglio dire, tu da. No, mi spiace, ma col lavaggio mi sa che perdiamo le firme. Esatto, quindi mi sa che quel pennarello che abbiamo usato non era particolarmente indelebile, anche se rimarrà indelebile nella tua anima e nel tuo cuore la mia firma, ricordatelo. Perché l'ho fatta col cuore. E quindi, Claudia, torna su. No, beh, che comunque ora poi si scherza, ma mamma mia, abbiamo di quelle istantanee nella mente che sono pazzesche. Vabbè, poi un saluto a Massimo da VG. Vigevano? No. Attenzione! Non lo so, l'ho sparato. Altro che topo onomastica, la nostra topa onomastica. Viareggio non credo che fa. Vabbè, lo stesso, da VG, che dice: cosa serve per aprire una nuova stazione rock? Anche locale, tanti soldi, Massimo. Soldi. Poi un saluto anche a aspetta, un saluto Bene, perfetto, stavo leggendo, è andato via tutto. Allora, c'è di buono che Edo riesce a comunque la piena padronanza del nostro monitor, quindi legge i messaggi che è una meraviglia. Vorrei vedere a voi. Allora, un saluto a Carlos e a quelli del bar Spitfire, che dice: che tristassi, Edo, mi mancherà di brutto non sentirti più all'ora del tè. Guarda, anche a me mancherà non poter essere più ascoltato da te all'ora del tè, però, Senti Claudia, poi c'è qualcuno che parla di noi, dice: solo due parole per descrivervi insieme: Casa Vianello. Due coglioni, no? Casa Vianello. E poi a ruota un altro ascoltatore, Mike, dice: cavolo ragazzi, ma voi siete meglio di Sandra e Raimondo. Poi, a proposito della mia pancia da birraiolo, Andrea da Cagliari, tra l'altro da Cagliari, guarda, applauso perché da Cagliari, applauso grande, perché da Cagliari, grande. Dice: Edo, stai benissimo, e Max che è troppo magro. Grazie, io apprezzo questa cosa. Figura. Non sei d'accordo sulle troppo magre? Sì, sì, no, sei bellissimo, Edo, guarda, io ti giuro, non so come faccio a resisterti ogni giorno. Ma infatti, se non fossi così amica della tua fidanzata, guarda, ci proverei di brutto. Ma infatti perché tu non comunque mi resisti. Tu veramente, cioè tu veramente sei un sex symbol e ogni volta che ti vedo ho l'ormone che impazzisce, però ahimè, sei fidanzato. Ero credibile? Beh, no, confesso di no. Però insomma, la Claudia, come vedete, è molto brava a nascondere le proprie emozioni, perché insomma dovreste vedere le volte che invece mi salta addosso quando sì. arriva in radio. Sì, allora, sì, per picchiarti però. Sì, ma perché a me piace violento. Allora, sto camminando per strada ascoltando le cazzate che dite. Il bello è vedere le persone che mi guardano ridere da solo come un coglione. Ivan da Genova, va bene, Ivan, siamo contenti che la gente ti prenda. L'importante è la salute e star bene. Esatto, allora il Soglio la dice: Edo, ma Claudia in radio come si presenta? In pigiama o in tuta come a casa? O bella bonazza in tiro? Ma di chi? Come vuoi che si presenti la Claudia? Sempre giù da gara, arriva chi fa lì, arriva sempre giù, messa in un modo pazzesco, super truccata, con assolutamente minigonne da urlo che sembra una porno segretaria degli anni Ottanta. Arriva con dei topless agghiaccianti, voglio dire, una roba pazzesca. Ma sai che Garavelli anni fa mi ha detto: vabbè Claudia che lavori in una radio, però in pigiama no. Però almeno le unghie tagliatele. Ma sì, ma l'importante è stare comodi, quindi viva la tuta, viva l'abbigliamento quello comodo. Bene, sono in stra ritardo, tra poco ci sono i Clash con quella canzone con la quale tu hai fatto una bellissima figura con Joe Strummer, della quale parleremo ovviamente più tardi, e poi il Tour de Force.